E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Cinque minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, i timori oggi presenti su molti giornali che vi fosse un rinvio per la decisione attesa per il prossimo 12 settembre in Germania. La Corte Costituzionale deve decidere sul via libera tedesco al fondo salva stati. Dicevo, i timori sono per fortuna svaniti. Già in mattinata la Corte Costituzionale tedesca ha chiarito che non vede alcuna ragione per rinviare la decisione del 12 settembre. Il rinvio aveva messo, o l'ipotesi di un rinvio avevano messo in agitazione i mercati che adesso però vanno a chiudere tutti positivi. Più 0,70% è il rialzo sia di Milano che di Francoforte, più 0,50% quello di Parigi e anche di Londra. L'America guadagna lo 0,20%, l'euro a quota 1,23,25, ce ne occuperemo perché insomma c'è un giudice a Berlino, ma soprattutto ormai la tensione a livello dei debiti dei paesi dell'area euro è così alta che dobbiamo occuparci anche di ricorsi singolari dell'atteggiamento dei giudici costituzionali tedeschi. Questo per dire quanto sia fragile poi di fronte alla sfida di una crisi globale, di un attacco speculativo globale, quanto sia fragile l'Europa divisa in mille rivoli anche di carattere, in questo caso giudiziario. Mai avrei immaginato personalmente di dovermi occupare dei membri della Corte Costituzionale tedesca per sapere se l'euro sarebbe rimasto in vigore, se nel nostro futuro vi sarebbe ancora stata di fatto poi la moneta unica. Ma tant'è, di questo parleremo dopo la chiusura di borsa. In apertura invece a temi italiani che si chiamano anche oggi Ilva, ma soprattutto Windjet. Perché? Perché c'è stato l'incontro alle 2:30 al Ministero dello Sviluppo Economico, ha partecipato anche il numero uno di Alitalia, Ragnetti, il quale ha chiarito che Alitalia non ha intenzione di tornare indietro sulla posizione presa, quindi la rottura delle trattative per acquisire la compagnia charter siciliana. Ne abbiamo parlato lungamente in questi giorni. Ci sono 300.000 posti prenotati e i problemi si verificano adesso, ma se non si trova una soluzione andranno avanti fino a metà ottobre. C'è il tema dei sovrapprezzi pagati per cambiare volo da molti passeggeri. Ragnetti però è stato esplicito, non si possono riaprire i termini, anche perché la riprotezione dei passeggeri Windjet e l'allestimento di voli speciali all'Italia, ha caricato in questi giorni oltre 8.000 passeggeri, sta costando 80.000 euro al giorno alla compagnia, all'ex compagnia di bandiera. Questo per quello che riguarda le dichiarazioni dello stesso Ragnetti. Per quello che riguarda i temi di oggi, ci occuperemo anche non solo della Corte Costituzionale tedesca, ma del PIL tedesco. L'economia tedesca infatti oggi ha diffuso un dato in cui c'è una crescita leggermente più alta, più 0,3% nel secondo trimestre. Stiamo parlando di una crescita che comunque anche nel paese più forte dell'area euro, ossia la Germania, non sarà superiore allo 0,8, massimo 1% quest'anno, poca cosa. La conferma che l'Europa è infrenata arriva invece anche dalla Francia, che ha avuto nel secondo trimestre un PIL pari a zero. È il terzo trimestre consecutivo, quindi sono 9 mesi che sono praticamente sì, quasi 9 mesi che la Francia continua ad avere un'economia che va sostanzialmente un po' di più di 9 mesi in rallentamento. La variazione è pari a zero, è inferiore all'attesa, doveva essere 0,1%. Ha evitato, se vogliamo vedere bicchiere mezzo pieno, la Francia la possibilità di finire in recessione, ma insomma con una Germania che fa 0,3 e una Francia che fa 0 non ci si può attendere molto, tant'è che l'Eurostat oggi diffonde il dato sul PIL nel secondo trimestre dell'anno e a livello di area euro siamo in recessione meno 0,2%. Sulla produzione industriale Purtroppo l'Italia è il paese dove il crollo, il rallentamento più forte c'è stato a giugno, meno 8% in Italia la produzione industriale a giugno rispetto a giugno del 2011, in Germania meno 0,4%, in Francia meno 2,6%, in Gran Bretagna meno 4,6%. Che a dire che l'Italia è il paese che sta frenando di più sulla produzione industriale, ma tutti gli altri paesi, inclusa la Germania, sono in flessione, hanno un dato negativo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro e petrolio ambedue in rialzo, 1612 dollari l'oncia per l'oro e 92, quasi 93 dollari per il petrolio a New York. Sul tema del petrolio, meglio della benzina e del gasolio, come ha ricordato anche il nostro GR, la Guardia di Finanza ha già controllato in Italia, chiaramente nelle ultime due settimane ha dato i dati sui controlli delle ultime due settimane, 2400 distributori stradali di carburante. Hanno contestato i finanzieri 356 irregolarità. Nei casi più gravi sono stati denunciati 23 gestori per frode in commercio. Sequestrati 53 impianti di carburante che erogavano sostanzialmente meno di quanto indicato. Il consumatore, l'automobilista era convinto di ricevere un certo numero di litri e invece erano meno, come se non bastasse il prezzo della benzina. Ma non c'è solo questo. Due gestori a Palermo vendevano gasolio per autotrazione annacquato con sostanze chimiche di bassa qualità. In seguito a questi controlli hanno sequestrato in Liguria e in Sicilia 21.000 litri di prodotti petroliferi, anche in questo caso taroccati oppure con contatori delle colonnine manomessi. Addirittura in alcuni casi si è stata messa diluenti per il diesel, 132 gestori sanzionati per la violazione sulla disciplina sui prezzi, 18 gestori per la rimozione dei sigilli che assicurano il corretto e regolare funzionamento degli impianti. Complimenti. Torniamo invece alle notizie sulla crisi europea. Lo spread italiano è in calo oggi a 434 punti base, ossia la differenza tra noi e la Germania, quanto costo per finanziare il debito, è una differenza del 4,34%. Il nostro BTP a 10 anni, e quindi all'Italia trovare finanziatori per il debito per i prossimi 10 anni, l'Italia deve offrire il 5,81%. È calato anche lo spread spagnolo a 526 punti base e dalla Spagna arrivano le dichiarazioni del primo ministro Rajoy che dice la Spagna non ha ancora preso alcuna decisione sul ricorso allo scudo antispread, cioè sul salvataggio, sulla chiedere aiuto all'Europa, e non ne prenderà fino a quando non vi saranno dettagli sul piano di aiuti da parte della Banca Centrale Europea. Vuole vederci chiaro, quindi anche la Spagna, e il prossimo 20-21 settembre a Roma vi sarà un incontro tra il premier spagnolo Mariano Rajoy e il presidente del Consiglio italiano Mario Monti. Lo stesso Monti avrà ricevuto a quel punto il 6 settembre la cancelliera tedesca Angela Merkel, quindi si annunciano due settimane intense sul fronte della diplomazia, in questo caso anche e soprattutto economica. Vedo già molti messaggi sulla Germania, ne parleremo nella seconda parte del programma. Faccio solo notare che la banca centrale tedesca, la Bundesbank, si attende un ulteriore indebolimento della crescita in Germania. Io faccio notare che la Germania esporta quasi metà delle sue esportazioni nell'area euro e se si fermano gli altri paesi europei, in primo luogo Italia e Spagna, ma anche la Francia non scherza, è difficile, cosa che ripetiamo da mesi modestamente, che la Germania possa essere un'isola in un continente così interrelato, no? Si aggrava invece la recessione dell'economia portoghese, il PIL è calato dell'1,2%, e fa un meno, nel secondo trimestre fa un meno 3,3% su base annua. Volete sapere perché il Portogallo, come la Spagna, come la Grecia e come l'Italia, vede un PIL così negativo? Perché mancano i consumi interni, manca la domanda interna, come si chiama in termini tecnici. I cittadini, con i continui giri di vite che chiede il rigore europeo, il rigor mortis, questo è il rischio europeo, beh, insomma, ha intanto come immediata conseguenza un elemento ciclico, quindi va a aumentare quella che è la recessione in atto, e infatti la frenata c'è in tutti questi paesi, non si consuma più, la domanda interna è ferma e il PIL di conseguenza cala più del previsto. L'Ilva di Taranto, ne abbiamo parlato a lungo anche ieri. Allora, oggi sono, le novità sono molto poche, in attesa che i tre ministri, Severino, Clini e Passera, il 17, venerdì 17, vadano a Taranto. Sono giunti intanto al Ministero della Giustizia due provvedimenti richiesti dal ministro Severino, con i quali, con i due provvedimenti con cui il GIP di Taranto, Patrizia Todisco, ha ribadito il sequestro degli impianti dell'Ilva e ha revocato la nomina di Bruno Ferrante dall'incarico di curatore. Lo stesso Ferrante, presidente dell'Ilva, ha depositato oggi un appello contro l'ordinanza del GIP e ha chiesto l'annullamento di questa sospensione, di questa revoca del suo ruolo di curatore. La Lega ha disertato oggi l'audizione del ministro Clini in aula alla Camera. Non abbiamo in alcun modo condiviso né la modalità né tantomeno le finalità, ha detto l'esponente leghista Gianni Fava, dell'odierna convocazione. Ma la cosa più importante sul fronte Ilva mi sembrano le dichiarazioni del ministro Clini, il quale è il ministro dell'ambiente, è stato direttore generale del ministero. C'è chi fa notare che Clini forse ha la coda di paglia, perché in questi anni poteva intervenire prima sull'Ilva. È vero, ci sono stati silenzi interessanti, si fa per dire, in questi anni sull'inquinamento dell'Ilva. Cioè, la posizione di chi vi parla la conoscete: bloccare un impianto, gli impianti nella parte degli impianti a caldo dell'Ilva è una follia, vuol dire bloccare per, ci mette 8 mesi a spegnere gli altri forni, poi altri mesi per riattivarli, ci sono 5.000 lavoratori direttamente coinvolti più altre migliaia di lavoratori coinvolti, e mi sembra che si possa provare, come si è fatto nel resto degli altri paesi, a mettere ulteriormente in sicurezza le emissioni dell'Ilva, ma nello stesso tempo non chiudere gli impianti. Detto ciò, io mi chiedo dove fossero molti di questi personaggi che adesso parlano, non solo il governatore della Puglia Vendola, che insomma viene da un'esperienza anche importante sul fronte ambientalista, tanti altri ambientalisti in questo momento silenti, e anche l'attuale ministro dell'ambiente Clini, che è stato direttore generale del ministero per molti anni. Sentiamo comunque il punto di vista di Clini per quello che riguarda la dialettica, in questo momento chiamiamolo così, tra governo e magistratura. Ha detto infatti Clini: l'autorizzazione ambientale non la dà il magistrato, e lo ha detto dopo aver ricordato che in questo momento è a rischio il sistema industriale italiano, con l'incertezza che viene generata dall'azione della Procura sui ruoli e sulle competenze. La Presidenza del Consiglio sta valutando la possibilità di sollevare il conflitto di attribuzione. La finalità è quella di chiarire i termini delle responsabilità, dei ruoli, non quella di aprire un conflitto con la magistratura. Nello stesso tempo però noi proseguiamo nella linea che ho appena indicato. Io mi auguro che la riunione del 17 a Taranto possa risolvere queste problematiche, rendendo più semplice sostanzialmente l'evoluzione e la gestione successiva delle fasi della nostra attività. Quello che è molto chiaro, che va detto con molta chiarezza, che in Italia come in tutta Europa le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni, a dare le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nell'esercizio degli impianti, competenti nel monitoraggio ambientale delle attività industriali, sono identificate dalle leggi oltre che dalle direttive europee. E nessuna legge, nessuna direttiva europea attribuisce questo compito all'autorità giudiziaria. Questo deve essere molto chiaro perché la situazione di Ilva rischia di creare un'incertezza su questo punto che riguarda non soltanto l'Ilva di Taranto, ma il sistema industriale italiano e anche, come dire, l'affidabilità dell'Italia nei confronti degli investimenti esteri che noi auguriamo, che noi cerchiamo di spingere nel nostro Paese. Ma non è un tema riconducibile a uno scontro tra il governo e la magistratura. E poi ha aggiunto sempre Clini, oltre che l'area a caldo appunto non si può chiudere, ci vogliono 8 mesi per spegnere tutto, più altri mesi per farlo ripartire eventualmente, mentre il mercato dell'acciaio non si ferma, ha aggiunto che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità collaborerà al monitoraggio ambientale della città di Taranto e su richiesta dello stesso ministro, in particolare sarà il Centro Europeo su Ambiente e Salute di Copenaghen a collaborare al controllo dell'inquinamento a Taranto. Sì, ci scrive un ascoltatore che lavora all'ILVA, sono 15.000 i lavoratori diretti più 15.000 gli indiretti, è verissimo, noi abbiamo citato solo i 5.000 che lavorano nella parte a caldo, che è quella coinvolta in questo momento. Comunque, preoccupazioni per lo scontro tra magistratura e governo e per le ripercussioni che potrà avere sull'intero sistema produttivo italiano le ha manifestate la nostra Raffaella Calandra, anche il vicepresidente di Confindustria con delega al Mezzogiorno, Alessandro La Terza. L'Ilva di Taranto produce la gran parte dell'acciaio utilizzato nella tipica manifattura italiana, quindi questo esporrebbe tutto il sistema industriale a una considerevole difficoltà. Qualunque opportunità il governo possa individuare per evitare la catastrofe di una chiusura dell'Ilva sia opportuno, sia per il caso specifico, sia per il segnale. Non si doveva arrivare ad una decisione della magistratura, visto che è una questione aperta da decenni, potremmo questa dire. Questa ovviamente è un tema di tutta evidenza. Noi abbiamo bisogno di avere un quadro regolatorio certo su scala nazionale. Nessuno mette in discussione l'iniziativa dei giudici, ma il provvedimento di sequestro si può fare in molti modi. Nel momento in cui c'è una decisa azione del governo nazionale con la collaborazione delle amministrazioni locali per avviare immediatamente non solo un'azione di risanamento dell'Ilva, ma addirittura un'azione di risanamento dell'area di Taranto, mi sembra che questo sia un processo da favorire senza nulla togliere alla libera, autonoma iniziativa dei magistrati, che devono seguire la loro strada. Ovviamente non devono avere loro premura di disegnare uno scenario né per il lavoro né per la salute pubblica. E poi rispondo anche a un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, dunque, no, caro incompetente, la ringrazio per l'incompetente, i consumi non calano per il rigore, ma perché questo rigore è attuato con sole tasse su chi ha sangue, anziché con la riduzione della spesa. In realtà che tu tagli il welfare, allora, la spesa improduttiva va tagliata, adesso ne parliamo tra un secondo. Quello che si è detto, e mi dispiace se non sono stato capito, è che le politiche tutte restrittive, che siano attuate riducendo poi il welfare e tagliando i trasferimenti, o che siano attuate aumentando le tasse, dal punto di vista finale conta poco, se non ci sono anche politiche anticicliche, cioè investimenti, e si liberano risorse e si abbassa lo spread, quindi noi la smettiamo di spendere tutti i soldi che abbiamo ottenuto con l'aumento delle tasse e altre amenità per pagarci il debito, Ecco, finché tu non interrompi questo circolo vizioso, secondo me non ne esci. È quello che dimostrano le economie di tutta l'area euro, e che l'Europa ha iniziato a frenare bruscamente, più bruscamente delle attese, da quando l'unico elemento per salvare l'euro è sembrato essere il rigore. Il rigore va bene, i compiti vanno bene, ma anche politiche anticicliche. L'America non ha, per uscire dalla crisi, imposto solo il rigore, si è messa a stampare valangate di dollari e allargare i cordoni della borsa con politiche anticicliche. Non so se questo può servire. Visto che però l'ascoltatore faceva riferimento agli sprechi, la spesa pubblica torna, o meglio, non se n'è mai andata purtroppo la nostra rubrica, ma cos'è questa crisi? Ieri già vi avevamo dato la notizia sulle auto blu, oggi veramente dobbiamo tornarci, perché la lentezza di alcune amministrazioni pubbliche nel dare i dati e mettersi in riga con quella che è stata la strategia del governo è impressionante, ma soprattutto, a mio avviso, impressionante è anche il numero di auto blu presso enti o soggetti che non si capisce perché cavolo debbono averle. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Che il problema è sì dovuto alle 61.000 macchine, di cui 8.000 blu in senso stretto e le altre sono auto grigie, cioè quelle sotto i 1600 cc di cilindrata con l'autista oppure senza autista tout court. 61.000 macchine, di cui 2.000 nuovi acquisti l'anno scorso. Il costo totale è 1 miliardo 200 milioni di euro, di cui 800 milioni di euro per autisti e personale, no? Quasi a metà, 450 milioni per gli autisti, 350 milioni per il personale. Poi 21 milioni di euro per l'acquisto di nuove auto, 50 milioni di euro per il noleggio, 160 milioni per le assicurazioni e in tutto 20.000 addetti, di cui metà stanno nelle piante organiche dei comuni o anche le province, che non scherzano, perché hanno più auto blu delle intere province di tutta l'amministrazione centrale dello Stato, 3.700 auto blu solo per le province italiane, auto blu e grigie, quelle blu sono 654. La cosa impressionante però è il numero di soggetti che ritengono di avere diritto a un'auto blu con un autista, a un'auto grigia senza autista, con l'autista ma sotto i 1600 cc. Mi date il tango della Maiella perché oggi ci vuole. Perché, dicevo, i numeri fanno impressione e stiamo citando tutte le auto che non includono i servizi di sicurezza, cioè quindi forze armate, polizia, scorte e quant'altro. Allora, io quello che non capisco è, al di là del numero, non sono un tecnico sulle auto blu, mi sembrano troppe, 60.000, ma io vorrei capire perché le ASL in Italia dispongono di 918 auto blu e 17.000 auto grigie. Ma concentriamoci su quelle blu, quelle con l'autista. 918. Ma qualcuno mi spiega perché il direttore di una ASL deve girare con l'autista? No, ma non è polemica, non lo capisco veramente. Cioè, qual è la funzione che ha il direttore di una ASL da giustificare la rappresentanza, mettiamola così, di un autista? Perché? Boh. Le università pubbliche, 164 auto blu, ma perché un rettore deve girare con l'autista? Ma esistono i taxi e anche gli autobus, volendo, ma esistono i taxi. Prende un taxi, se lo paga, no? O lo fa pagare, se per motivi di lavoro porterà lo scontrino come tutti i comuni mortali. Boh. Enti pubblici di ricerca, 127 auto blu. Le province, non parliamone, 654 auto blu. Le regioni 603 auto blu, i comuni 2371 auto blu. Voi direte, fai polemica per nulla, mica tanto. Sapete quanto spendono le ASL italiane per le auto blu e le auto grigie? 210.000 euro l'anno. Cioè, 210 milioni, magari, diciamo. 210 milioni di euro l'anno. Poi si arriva i comuni che spendono 300 e il totale di tutta questa roba porta al miliardo di cui ricordavamo, il 1,2 miliardi complessivo, che è il costo, 1,2 miliardi di euro, 2.400 miliardi delle vecchie lire, è il costo complessivo delle auto blu. Chi ha tagliato, facciamo anche i nomi, chi ha tagliato di più le spese? Allora, il Friuli Venezia Giulia meno 31%, la Toscana meno 25%, il Veneto meno 22%, l'Emilia Romagna meno 21%, la Puglia meno 20%, chi ha tagliato di meno? La Liguria meno 12%, la Sicilia meno 11%, il Molise meno 10%, la Sardegna meno 8,4% e l'Abruzzo meno 6,7%. Un plauso va alla Regione Marche, che ha ridotto in un anno la spesa per l'auto blu di 1.200.000 euro, quindi vuol dire che si può e si possono tagliare anche le auto blu. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema Winjet, l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulla questione Winjet, visto che Alitalia non ha intenzione di riaprire la trattativa. Secco l'amministratore delegato di Alitalia Ragnetti all'ingresso del Ministero: non c'è possibilità di riaprire il dialogo con Winjet, stiamo pagando 80.000 euro al giorno per la riprotezione e l'allestimento di voli speciali per trasferire i passeggeri che avevano comprato il biglietto con Winjet. Devo dire che la cosa che mi addolora di più in tutta questa situazione, che è una situazione kafkiana per noi, perché improvvisamente da alcune parti siamo descritti come i cattivi e non si capisce perché, è che ci siano centinaia di persone in Alitalia che lavorano giorno e notte con grande abnegazione per cercare di aiutare i passeggeri, che sono la nostra più grande preoccupazione in questo momento, per cercare di dare una mano, come la più grande azienda aerea italiana, compagnia aerea italiana dovrebbe fare, spendendo, tanto per informazione, 80.000 euro al giorno di costi che noi non recuperiamo da nessuna parte per fare quello che facciamo, e di essere continuamente, diciamo, insultati, continuamente fatti oggetto di speculazioni, di dietrologie. Noi siamo gli unici che hanno avuto un'idea per salvare Winjet, abbiamo fatto quello che l'ho appena descritto e guardi dove ci troviamo. Così appunto l'amministratore delegato di Alitalia Ragnetti è davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, il nostro Andrea Viali. Andrea, mi senti? Buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, a te e agli ascoltatori. Ancora in corso la trattativa e soprattutto Ragnetti, dopo aver ricordato quanto costa dall'Italia, lo abbiamo appena sentito, ha voluto anche precisare, insomma, come si è arrivati a questa rottura. Andrea. Sì, esatto Sebastiano, la trattativa è ancora in corso ormai da 3 ore, questo anche a testimoniare la delicatezza della questione. E a rappresentare il governo nella prima fase non è stato il ministro Passera, ma il sottosegretario dei trasporti Improta, che ha sentito, incontrato separatamente i rappresentanti di Winjet e Alitalia, poi ha riferito a Passera. Il confronto poi si è allargato anche ai rappresentanti di sindacati ed ENAC, oltre che a quelli degli enti locali. Tra poco capiremo se la mediazione del governo riuscirà a far riaprire questa trattativa. Naturalmente l'esecutivo è preoccupato per un eventuale fallimento di Winjet, che tra dipendenti e indotto costerebbe il posto a 800 lavoratori. Naturalmente poi ci sono anche circa 300.000 passeggeri che hanno in mano un biglietto di Winjet, che in questo momento è poco più che carta straccia, perché come sappiamo da 3 giorni Winjet non vola più e questi passeggeri sono trasportati dalle altre compagnie. La strada, dicevamo, però è in salita e abbiamo già sentito l'amministratore delegato di Alitalia Ragnetti chiudere all'ipotesi di una ripresa della trattativa. Ragnetti ha anche poi fatto un po' la cronistoria del confronto con Winjet, ma sentiamo proprio le sue parole. Noi non abbiamo mai cambiato idea, noi abbiamo firmato un contratto preliminare con Winjet che prevedeva che loro facessero determinate cose. Niente di tutto ciò che noi avevamo richiesto si è avverato entro il 29 giugno. Nonostante questo abbiamo aspettato altri 20 giorni lavorativi, come da contratto, discutendo con loro quotidianamente per trovare un'altra soluzione. Faticosamente siamo arrivati al 2 agosto dove abbiamo trovato un accordo che comunque snaturava l'accordo iniziale, ma sul quale eravamo disposti ad andare avanti. Anche su quello non ci sono arrivate nessuna delle garanzie, delle cose che erano collegate a quell'accordo, solo insulti, solo insinuazioni. A un certo punto finisce la pazienza e si chiude, ed è così così. Guardi, soltanto un ingenuo può pensare che, come dicono alcuni, che all'Italia abbia voluto scientemente far fallire una Winjet. Le linee aeree, le aziende non si fanno fallire standone all'esterno e in pochi mesi, e chiunque sappia leggere i bilanci e la storia di Winjet si rende conto perfettamente che se sono falliti, se falliranno, sarà semplicemente per cattiva capacità gestionale. Beh, a me pare che Andrea, nella trattativa, nella vicenda Winjet, l'unica cosa che stia volando da 3 giorni sono gli stracci, Andrea. Beh sì, è così, abbiamo sentito Ragnetti abbastanza infastidito per l'andamento di questa trattativa. C'è da dire che però anche parlando con noi giornalisti ha lasciato intendere che forse una possibilità di riprendere il discorso c'è, perché in effetti un accordo era stato raggiunto, un accordo che però poi Winjet non ha onorato, secondo l'amministratore delegato di Alitalia, però l'accordo c'era e forse da quello si potrebbe ripartire. Vedremo poi quali frutti porterà la mediazione di Passera. Sì, l'attacco era diretto a Antonino Pulvirenti, che è il proprietario di Winjet e quindi alla sua gestione. Già nel 2005 Pulvirenti si trovò al centro di una dura contestazione da parte del personale di Winjet per presunte minacce e comportamenti antisindacali. Ma insomma, una cosa va detta. Ieri abbiamo sollevato qualche obiezione e dubbio sul fatto che all'Italia potesse rompere una trattativa nel pieno periodo, diciamo, dell'esodo estivo e di migliaia di persone in aeroporto. Oggi però lasciatemi dire che è sbagliato dire che Winjet fallisce perché all'Italia non sarebbe voluta comprare. All'Italia è un soggetto privato e farà i suoi calcoli. Qualcuno anche ci potrebbe spiegare come è stata gestita Winjet in questi anni. Pulvirenti, se vuole, l'abbiamo cercato, può venire ospite. Perché si arriva a questo fallimento? Che ne ha fatto dei soldi, oltre che comprarsi Catania e altre amenità. Cioè, adesso dà la colpa all'Italia perché Winjet non vola più, perché non te la sei comprata tu, mi sembra un po' eccessivo. Grazie Andrea Viali, tienici aggiornati se usciranno, perché appunto è iniziato alle 2:30, poco dopo le 2:30 l'incontro ed è ancora in corso, se usciranno il ministro e i rappresentanti di Winjet e di Alitalia. Borsa che ha chiuso sia Milano che sia il resto d'Europa con un più 0,85% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,90% Francoforte. Più 0,85 dicevo nel finale, più 0 Milano, più 0,70 Parigi, più 0,90 Francoforte, più 0,50 Londra, l'America più 0,30. Lo sventato pericolo, ossia la Corte Costituzionale tedesca, ha detto che in realtà il 12 settembre uscirà con la sua decisione se è ammissibile o no il fondo salva stati, ha un po' tranquillizzato i mercati. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Bene oggi anche alcuni bancari, ma il titolo migliore è Mediolanum, più 1,45%. Sì, oggi è andata bene Mediolanum, più 1,45%, con uno scatto finale che gli ha consentito di sopravanzare sia alcuni industriali come Fiat che i bancari, fra cui appunto Unicredit, più 1,36%. Sì, più Unicredit, ma Fiat, i Fiat più nel 40, Fiat Industrial, quindi camion e trattori più nel 38, Unicredit tu citavi più nel 36, anche Saipem oggi bene più nel 32%, la Pop Emilia Romagna per il secondo giorno cresce più nel 31, ST Microelectronics recupera più nel 20, Snam più 1,20, anch'essa, chiudo con Salvatore Ferragamo più 1,11 come UbiBanca, più 1,11 anch'essa, e Pirelli più 1%. Chi oggi ha perso? Pochi titoli, per fortuna, ma in pregiro meno 1,90, va in media 7-1,80, ma era molto cresciuta in questi giorni. In pregiro? Sì, per quello che riguarda in pregiro, continua un po' il braccio di ferro per il controllo della società fra il gruppo Gavio e quello Salini. C'era stata nei giorni scorsi la mossa del gruppo Gavio, che aveva depositato un ricorso d'urgenza al tribunale per chiedere l'annullamento delle delibere dell'ultima assemblea. Oggi invece, secondo quanto appunto riportato dal Sole 24 Ore, è emerso che Salini starebbe facendo un'analisi attenta dei libri contabili di Impregilo per quello che riguarda le passate gestioni, in modo da capire se ci siano eventuali criticità lasciate in eredità dai Gavio. Si tratta di schermaglie che in questa fase non stanno facendo particolarmente bene al titolo, che oggi ha perso l'1,9%. Sì, dicevo di Mediaset, ha fatto più 20% in una settimana, è vero che veniva dai minimi storici del titolo, però qualche realizzo oggi ci può stare. Ieri volumi fortissimi, massimi da 5 anni e mezzo a questa parte per Mediaset. Volete sapere se domani la borsa è aperta? No, in Italia è chiusa e Focus Economia non va in onda a Ferragosto, come mai è andato in onda a Ferragosto in questi 12 anni, però giovedì siamo di nuovo in diretta, ci mancherebbe. Andiamo avanti con i titoli. Prelios, l'ex Pirelli Real Estate, la parte immobiliare, l'ex parte immobiliare del gruppo Pirelli, male anche oggi mi sembra. Sì, anche oggi un meno 7%, ieri aveva perso più del 10%, pesano ancora le indiscrezioni sulla possibilità, le necessità di un aumento di capitale per la società per far fronte alle svalutazioni semestrali. La società pubblicherà i conti solo a fine agosto, però intanto il mercato, come dire, si sta già attrezzando e sta penalizzando molto il titolo. Fratelli Magnoni, Sopaf ancora giù oggi, meno 5,21%. Sì, anche qui la società da un paio di giorni risente del fatto che non è stata in grado di rimborsare alcune rate di bond che andavano in scadenza. Si tratta di una situazione ovviamente complicata, la società sta cercando di capire quali possono essere all'interno della legge fallimentare le possibili soluzioni per uscire dalla crisi. Intanto però il titolo continua a soffrire, anche oggi meno 5,21%. Dice uno scrittore che sbaglio dire l'America, dovrei dire gli Stati Uniti per dare il dato di Wall Street, ha ragione, ci mancherebbe, non ci occupiamo della borsa di San Paolo in questo programma, ha ragione. Fossero questi gli errori ci metterei la firma, ma ha ragione. Nokia meno 10,81%, EMS meno 15,31%, Prelios abbiamo detto, Self Therapeutics meno 5,94%, questi titoli peggiori. I migliori invece, KR Energy più 10,99%, e poi Asco Piave più 7,24%, del clima più 7,18%, Intech più 5,12%. Che è successo invece a Groupon? Meno 23%. Negli Stati Uniti sapete cos'è Groupon? È il sito di sconti online, no? Quello dove fai gli acquisti di gruppo, famosissimo. Meno 23% ha perso e sta perdendo in America. Sì, ha perso molto oggi. Con tra l'altro una trimestrale con ricavi sotto le attese, tra l'altro, e la cosa interessante è che Groupon arriva dopo Facebook e Zynga, no? Tutte le società che si sono quotate nell'ultimo anno e hanno deluso le attese. Tra i titoli, e vorrei poi chiudere con questo, Guido, citavamo anche il gruppo Fiat, che però non abbiamo commentato, più nel 40 sui due titoli. C'è stata un po' una ripresa generale del settore industriale, perché negli ultimi giorni non era andato particolarmente bene. Inoltre come dire, oltre a Fiat più 1,43%, si è mossa bene anche Fiat Industrial più 1,38% e sempre fra i settori più o meno industriali più 1,32%. Tornando a Fiat, possiamo dire che non ha risentito della decisione di ieri del Tribunale che ha rigettato la sospensiva sulla riassunzione di 145 lavoratori iscritti alla FIOM. D'altra parte si tratta ancora di un passaggio intermedio in attesa che la discussione venga poi fatta sul merito a ottobre. Grazie, l'euro vi do anche l'euro 1,2329, grazie Guido Marino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. No, abbiamo messo questo stacco perché c'è chi scrive: ma scusatemi, visto che ci sono così tanti dipendenti delle auto blu, così tanti autisti che ci lavorano, tagliare le auto blu vorrebbe dire aumentare la crisi. Ragazzi, con questo ragionamento non si va da nessuna parte, perché allora o riduciamo le spese improduttive, le spese inutili, o se no diciamo che qualunque spesa, allora anche il falso invalido, anche i 20.000 dipendenti della Regione Sicilia, anche i forestali siciliani, quant'altro, sono tutte comunque forme di welfare. Il problema è che il welfare lo devi fare in maniera produttiva, riqualificando il lavoratore, non dandogli una sussistenza che poi fa schizzare il debito. E comunque un appello lo voglio lanciare: se c'è qualche dirigente, direttore generale della di qualche ASL che mi spiega perché ci sono 918 auto blu più 17.900 auto grigie a disposizione delle ASL italiane, io gli faccio una puntata intera. Voglio capire perché il direttore di una ASL deve girare con l'autista e anche i suoi collaboratori hanno auto o con l'autista o auto a disposizione. Voglio capire perché. I dati che sono arrivati sul PIL tedesco, cresciuto leggermente più delle attese ma sempre basso, più 0,3, quello francese a zero, quello portoghese peggiorato, nel giorno in cui questa mattina la Corte Costituzionale tedesca ha detto di non vedere alcuna ragione per rinviare la decisione del 12 settembre su via libera, al fondo salva stati. Ossia, il destino dell'euro, traduco in maniera un po' brutale, è appeso ai giudici di Berlino, no? Tutto mi sarei immaginato, dicevamo all'inizio del programma, tranne che dovermi occupare per sapere del futuro della moneta unica di cosa pensa la Corte Costituzionale tedesca. Ma tant'è, questo è il caos in cui si è ficcata questa gestione cacofonica, schizofrenica e centrifuga dell'Europa. La ballata dell'euro, eh. Professor Alberto Quadro Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera. Buonasera a lei. L'ha sentita la nostra ballata dell'euro? L'ho sentita. Parte con Sirtaki, poi c'è un flamenco, sì, poi c'è una tarantella, certo, e chiude Beethoven con la quinta. Certo. Allora, e dicevo in maniera forse un po' provocatoria che mai mi sarei atteso di dovermi occupare di Andreas Voskühle, che è il presidente della Corte Costituzionale tedesca, da cui mi sembra di capire, ma mi corregga se sbaglio, che dipendono i destini dell'euro. Ma siamo arrivati a questo punto ormai che basta una notizia per cui potrebbe saltare per un ricorso anti-Europa la sentenza del 12 settembre per mandare nel panico questa mattina tutti, poi sospiro di sollievo. Siamo messi alla frutta, professore. Ma guardi, la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 12 settembre va a valutare due aspetti. Un primo primo aspetto, se questo fondo salva stati EMS sia compatibile o no con quella clausola di trattati europei che vieta i cosiddetti salvataggi in forma permanente di altri stati. La seconda questione riguarda se ci sia o non ci sia, attraverso questa creazione che è il Fondo Salva Stati Permanente, una qualche forma di violazione della sovranità nazionale tedesca in tema di bilancio. La mia impressione è che entrambe le questioni saranno risolte a favore del Fondo Salva Stati, ma come diceva lei poco fa, è davvero peculiare che un grande paese come è l'Eurozona, con un PIL totale intorno ai 10.000 miliardi di euro, debba rimanere appeso al parere della Corte Costituzionale di un singolo paese membro, perché un innesco di questa natura potrebbe far partire tante altre corti costituzionali e allora saremo veramente alla parola fine dell'avventura, peraltro a mio avviso costruttiva, dell'euro. Della Eurozona. Sì, diceva Brecht, se non ricordo male, ma c'è un giudice a Berlino, sì, qua c'è un giudice a Berlino, ma vorremmo anche non legare le sorti della moneta unica e della casa comune europea, che non è solo una moneta, al giudice di Berlino. Non c'è dubbio. Professor Guido Curzio, mi aiuta a commentare un'altra cosa. Oggi sono usciti i dati economici dell'Europa. Allora, nel giorno in cui la Spagna ha detto, lo ha detto il premier spagnolo Rajoy, noi non prenderemo alcuna decisione sul chiedere aiuto allo scudo antispread finché non capiremo i dettagli, quindi Rajoy ha detto senza dettagli sul ruolo della BCE noi non chiediamo gli aiuti, hanno timore del trapponone. Aggiungo io, cioè che poi di vedersi commissariare dall'esterno, e devo dire che se fossi uno spagnolo ragionerei anch'io così. La Germania oggi ha avuto un PIL che ha fatto nel secondo trimestre più 0,3 invece che 0,2, e vabbè, se va bene così, se tutto va bene in Germania faranno più 0,8 più 1%, che è pochissima cosa per essere il paese più forte. La Francia ha fatto 0 per il terzo trimestre consecutivo, il Portogallo, sempre dato di oggi, meno 3,3% su base annua. Si sta fermando, cioè, la consapevolezza che la Germania non è un'isola, secondo lei sta emergendo anche attraverso questi dati? Quindi se si ferma il resto d'Europa, si ferma anche la Germania? Certo, io credo che questa consapevolezza dovrebbe esserci, anche perché il dato tedesco va associato a delle condizioni estremamente favorevoli nel credito al sistema imprenditoriale e produttivo tedesco, in quanto ormai i tassi di interesse, che nel caso dei titoli di Stato su talune scadenze sono già negativi, i tassi di interesse sono molto favorevoli al sistema produttivo. Tutto ciò ha creato tra l'altro una simmetria competitiva a favore della Germania che dà dei risultati veramente modesti se si tiene conto dell'entità della simmetria stessa. Cioè lei dice, nonostante la Germania in questo momento sia il paese dove finanziare un'impresa costa pochissimo rispetto agli altri paesi concorrenti europei, perché i tassi sono sotto lo zero, quelli reali, e quindi un imprenditore tedesco può andare in banca e avere dei tassi praticati sull'1-2% a differenza dell'8-9%. 7 che ti fanno qua, e quindi c'è già una concorrenza sleale, visto che tutti abbiamo la stessa moneta unica. Nonostante il fatto che la Germania riesca a finanziarsi a tasso negativo, quindi a lei conviene avere debito piuttosto che non averlo, cresce così poco, e a dimostrazione che non è questa la strada d'uscita. Esattamente così, questo dovrebbe allarmare i tedeschi invece di renderli in qualche modo euforici, non tenendo conto questa loro euforia che nel momento in cui l'Europa davvero si avvicina alla rottura, anche i titoli tedeschi subiranno dei grossi contraccolpi e i capitali andranno verso l'unico lido ritenuto invulnerabile che è il dollaro, e quindi andranno verso i titoli in dollari. D'altra parte, negli ultimi tempi, sia pure con su e giù, i tassi di interesse sui titoli decennali tedeschi, pur rimanendo molto bassi in termini assoluti, hanno avuto delle variazioni significative. Si è passati dall'1,12 all'1,45 in pochi giorni, poi sono ridiscesi, ma sono variazioni di tasso a quei livelli così bassi molto molto marcate, dunque i tedeschi secondo me non stanno proprio facendo bene i loro conti. Ma guardi, io ho la sensazione, visto che lei è un esperto montanaro, insomma, che qui i tedeschi non capiscono che se parte una slavina è vero che le prime baite vengono travolte e noi ci siamo proprio, ma non è che a fondo valle possono continuare a ballare il valzer, perché insomma prima o poi arriva anche lì. Allora se qui salta l'euro, probabilmente con i numeri che abbiamo visto oggi, la Germania sta già rallentando la sua crescita, ripeto, uno 0,8%. È un prefisso telefonico, non è una crescita. Certamente. E quindi c'è poco da sperare che crollerà la Spagna, l'Italia, tutta la corona dell'olio d'oliva, eppure e tu resterai in piedi perché... Sì, si tira dietro tutto. Ecco, però mi sembra che ancora siamo aggrappati al giudice a Berlino. Sì, ecco, io farei una piccola aggiunta, e cioè l'aggiunta è questa... Probabilmente l'Italia, il governo italiano, che peraltro in qualche modo ha riacquistato al nostro paese una credibilità nel contesto europeo, dovrebbe impostare una strategia un po' più precisa con riferimento all'Europa, perché l'affermazione è peraltro comprensibile, noi facciamo per conto nostro. Quando noi siamo contributori ai fondi salva stati europei, vero, in grandi dimensioni, il terzo contributore, appunto, dovrebbe anche farci riflettere sul fatto che talvolta ai doveri si associano anche dei diritti, perché noi le manovre le abbiamo fatte, abbiamo un avanzo primario che marcia verso il 4%. Cioè lei vuole un Monti un po' più duro a ricordare che l'Italia non ha chiesto un euro e invece li sta mettendo per il fondo, appunto, per il fondo salva stati, siamo il terzo paese contributore. Appunto, esattamente così. E che la Germania di per sé ha fatto la sua parte, ma non più di quanto in proporzione ha fatto l'Italia, ha fatto la Francia. D'accordo, io guardi su questo, dai, sa che sfonda una porta aperta, i primi della classe devono giustificare il loro ruolo, la Germania ha fatto i suoi compiti come li abbiamo fatti noi, partiamo da una situazione sicuramente peggiore, infatti dobbiamo studiare di più, nessuno lo nega, sì, certo, ma dire che siamo gli unici che devono studiare oppure che stai studiando solo tu mi sembra un'esagerazione. Grazie al professor Alberto Quadrocurzio, devo grazie dare una grazie e buon Ferragosto. A questo punto devo dare una risposta e legge una piccola cosa. Se mi date di nuovo Caparezza sugli autisti delle ASL. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. No, perché io dico, va bene tutto, adesso non mi voglio arrabbiare, domani è Ferragosto, già non capisco il perché ci siano 918 auto blu e 17.900 auto grigie per chi rappresenta l'azienda sanitaria, ma no, pazzi. Ma sentite questa, ce lo scrive una ascoltatrice di ascoltatore di Latina. I dirigenti della ASL di Latina girano con l'autista, ma lui che guida l'unità di trasporto sangue della ASL di Latina gira con una Panda 750 di fine anni 80. Allora, vergognatevi, almeno abbiate la decenza di girare voi con la Panda, di dare all'autista per portare il trasporto sangue, no, della ASL di Latina. Buon Ferragosto. Radio 24. La passione si sente.